Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Commendatore, oggi è la festa della donna. Secondo lei, la rinascita di Corigliano deve puntare proprio sulle donne del luogo? Io principalmente, in primo posto, faccio i migliori auguri a tutte le donne del mondo, perché le donne sono in tutto il mondo, quelle di Corigliano principalmente, perché siamo a Corigliano, però un augurio grande a tutte le donne del mondo. Auguri donne! Chi lo vuole questo? Chi lo vuole? Io mi sto levando la preoccupazione da oggi, parlo oggi della festa della donna, così domani posso parlare d'altro. Sì, perché vorrei questa mattina chiamare le mie ascoltatrici a raccolta e dirmi cosa farete domani, che vi inventerete per la festa della donna, perché da un certo punto di vista sono felice se sia la festa della donna, a me farei anche la festa del portacenere, la festa del microfono, la festa del professor Chiappini, cioè mi inventerei una festa ogni giorno, mi piace pensare ai giorni di festa, però domani regna l'ambiguità e soprattutto siamo arrivati a un punto di non ritorno rispetto alla festa della donna. Ma cos'è una festa? E feste io leggo giorno in cui si balla, si canta, si fa festa, appunto come queste signore vanno al locale dello spogliarellista, gli infilano i soldi nel perizoma, lui tira le mutande e via dicendo, oppure è una giornata in cui si ricorda gli eventi luttuosi legati al mondo femminile, all'emancipazione delle donne, quindi giustamente, allora ha ragione il presidente Boldrini, mettiamo le bandiere a mezz'asta, ma le bandiere a mezz'asta è una giornata di lutto, allora domani è il lutto della donna o è la festa della donna? Questo vorrei capire. Su questa giornata c'è una grande ambiguità, mi sono documentato dalle fonti, quindi ho preso 10 minuti fa Wikipedia, ho cercato 8 marzo, ho capito molte cose. Vi dico quello che ho capito perché non è detto che tutti lo sappiano. La festa della donna c'è dal 1907, è una cosa noiosissima, nata all'interno di un'internazionale socialista, c'era Lenin, Rosa Luxemburg, qualcosa di antitetico e lontanissimo rispetto alla contemporaneità, visto che c'era la festa della donna, era giusto, allora le donne dovevano ancora fare molta strada, dovevano conquistarsi comunque il diritto di esistenza come persone appartenenti al consesso civile, però era il 1907, si faceva agosto allora la festa della donna, poi lentamente si è spostata. L'8 marzo nasce a San Pietroburgo, l'anno 1917, le donne russe scendono in piazza e dicono non ce la facciamo più della guerra, basta, fine. In quel periodo stava scoppiando però la rivoluzione russa, stanno per fare la pelle allo zar, quindi si è un po' confuso tutto, comunque rimane l'8 marzo, festa della donna. Le mimose, che noi pensavamo che nascessero in Italia soltanto ai tempi delle femministe degli anni 70, no, dal 46 che ci lessano con le mimose, del 46 le donne italiane naturalmente uscite dalla guerra fanno la festa della donna e si inventano la mimosa. Oggi le mimose le vendono al semaforo i poveri cingalesi e le vendono per giorni e giorni, perché nessuno le vuole più. Chi le vuole più le mimose? Non le compra più nessuno, quindi il 9 marzo, il 10 marzo, l'11 marzo, fino a che ne so, quasi aprile si venderanno ancora mimose rinsecchite, ammuffite, che vengono chissà da quale isola lontana. Altra cosa, ho sempre pensato che la festa della donna in realtà è un giorno di lutto, me l'hanno insegnato, no? È un giorno in cui prese fuoco una fabbrica a New York, la Cottons, morirono 123 donne, non è vero. È una fantasia, non è mai successa questa cosa. Ci fu un incendio nel 1911 a New York, la fabbrica Triangle, quale morirono 146 lavoratori, ma non c'entra niente con la festa della donna. Quindi il presupposto per cui si fa il giorno in cui si ricordano giustamente i diritti delle donne è un presupposto fantasioso. Quindi cosa farete domani? Andrete a ballare? Andrete a fare quelle cenette tristi alle pizzerie solo donne, con l'orologio in mano, col marito che chiama, torna a casa che c'è il bambino che piange? Oppure farete finta di niente, perché non ne potete più nemmeno voi della festa della donna? 800 24 00 24. Melog. Cronache meridiane. Buongiorno a tutti. Auguri, auguri e tanti tanti auguri per la festa delle donne. 8 marzo, un giorno importante, un giorno veramente unico e da ricordare. Auguri a tutti i nostri clienti donne, a tutti auguri a tutti i nostri fornitori donne, auguri a tutte le donne, che però sia un giorno non solo da ricordare oggi, ma da ricordare sempre, perché voi siete l'esempio vivente della cosa reale che c'è, essere donna, essere grande. Grazie donne, grazie di tutto, auguroni dal Museo delle Macchine da Scrivere che si trova presso la Brasalizzi. Beh, ci credo che ringrazia le donne. Se non ci fossero state le donne, le macchine per scrivere avrebbero avuto molto meno impiego e molto meno uso. È stato l'oggetto in cui sono state inchiodate le donne per decenni, è stata una delle prime professioni tipicamente femminili. Quando io chiesi Rai a metà degli anni Ottanta di avere un computer per la mia redazione radiofonica, perché volevo collegarmi a questa cosa chiamata internet, mi dissero: che ci fai con un computer? È una roba da segretarie, perché ancora a metà degli anni Ottanta nell'azienda di Stato la tastiera era il luogo dove potevano soltanto scorrere le gentili dita di una donna. 800 24 00 24, voglio fare il punto sulla festa della donna. Festa della donna o giornata di riflessione su le violenze nei confronti delle donne, i lutti delle donne, ciò che le donne devono soffrire, i limiti sociali per le donne. Devo capire, perché se è una festa bisogna ridere, essere allegri, bere, ubriacarsi, ballare. Se non è una festa, è una giornata in cui riflettiamo e siamo qui per riflettere. Marina, buongiorno. Buongiorno a lei. Io, guardi, non ho mai festeggiato la festa della donna e non la festeggio, perché ritengo che sia una presa in giro per tutte le donne. E veramente mi vergogno di tutte le donne che vanno in giro a fare le cretine pensando di fare chissà che cosa. Beh, però aspetta, Marina, è un atteggiamento triste questo qua, dire alle donne cretine. Se si divertono, no, perché non possono andare in giro? Mi scusi, ma lei prima ha detto queste signore che vanno a cena, che guardano l'ora perché il marito a casa le chiama. Dovrebbero buttare via l'orologio e il telefono e starsene tutta la notte fuori a folleggiare. Sì, ma allora la festa della donna può essere in qualsiasi altro momento della vita. Ma tutti dicono così, ma se non c'è un giorno di festa poi non si festeggia mai, è inutile, è così. Uno dice: faccio festa tutti i giorni, oppure tutti i giorni siamo innamorati, poi uno in realtà il regalino si fa solo per San Valentino, è così. Le feste servono per uscire dal tempo del quotidiano, se non stabilisce la liturgia delle feste, sì, rimane sempre nel quotidiano. No? Giustissimo. Però c'è, ma lei è triste, Marina? Cioè, lei è un giorno di festa? Io sono una persona solarissima e sola? Solare. Solare è terribile, come Attimino dire una persona solare. Prego, scusi. È come dire Attimino, dire sono una persona solare, che vuol dire? No, io sono una persona allegra, una persona serena, una persona felice. Ma scusi, allora di notte si spegne se è solare? Non ho capito. Se di notte, se lei è solare, di notte si spegne. È una domanda. Dormo di notte. Vedi, allora è triste, non avrà mai una festa se di notte dorme. No, abbia pazienza, non sono triste. No, ritengo però che non sia. No, mi piace questa festa delle donne. Oh, le piace, l'ho fatto cambiare idea in 30 secondi. Non mi piace. Prova, ha detto mi piace. Vabbè, non le piace. Non è possibile. La prima non che chiama piace. Dice che non le piace. La prima donna è una donna dissidente. Dice: non voglio la festa della donna perché è una presa in giro. Sono stupide le donne che vanno a ballare. Sono stupide le donne che pensano che ci possa essere soltanto il giorno di festa. Gli altri giorni poi fanno le schiave. Punto di vista. Alberto, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Carrara. Sono sposato da 50 anni. E le vorrei dire che questa festa delle donne, secondo me, è sbagliata. Per il semplice motivo che quando un signore, un uomo, ha una donna di fianco, la festa è tutti i giorni, e adesso, tutti i minuti, che luoghi è comuni, ogni però. Attimo. Ma qua, per me la festa è così, è stata inventata per far mangiare un po' i ristoranti che sono un po' in declino. No, ma così. Non è così. I regalini, secondo me, alle donne non ci vanno mai fatte. Ci va regalato l'amore di tutti i giorni e ogni tanto portarci una violetta. E ma quando si rompe le palle cosa fa? Se uno si rompe le scatole, va, diciamo così. E non si deve rompere le scatole. È già un obbligo. Uno no, può avere degli non è obblighi. Un obbligo, non è un obbligo, è un amore. Perché la donna l'abbiamo voluta. Ma l'amore è al di là della nostra capacità di condizionarlo, scusi. Non cambi la frittata. No. Non è questione di condizionare. Il mio mestiere è cambiare la frittata, però. No, non è questione di condizionare l'uomo. L'uomo è nato per avere la donna. La donna è nata. Ah, la donna allora è un accessorio dell'uomo, ecco. Allora la donna è un accessorio dell'uomo, vuol dire. La donna è? Un accessorio dell'uomo. No. E cos'è? La donna fa parte della vita dell'uomo. Ah, se, sono quindi, due cose, quindi sono diciamo, due cose, se non ci fosse un uomo della cui vita far parte, non avrebbe ragione di esistere la donna. Sì che la donna ha ragione di vivere. Può vivere anche senza uomo una donna. Di vivere ma la può donna. Vivere senza uomo. La donna può vivere anche senza l'uomo, ma l'uomo, quando ha la sua donna... La sua, che è che è un possesso. Perché ha detto la sua, Alberto? È un possesso. La mia. La mia perché io sono... E che è una cosa, un oggetto, la sua? Mica le può appartenere una persona, scusi. No, che non mi appartiene. Ha detto la mia. Io direi mai la mia donna. Una donna che mi sta vicino. No, è la mia donna perché il Signore me l'ha data. È il Signore. Chi non crede nel Signore, chi gliela dà la donna? Chi non crede nel Signore, senza fede, senza religione. E per questo il mondo... E quindi deve stare senza donne? Eh no! Quindi il Signore dà le donne soltanto a chi ha fede. È un regalo del Signore. No. Non rigiri che la... Ma la donna gliela data... Il Signore. Io la sento tutti i giorni. Non cerchi di farmi rigirare l'idea di venire. No, ma lei è felice, ma lei è felice. Il mio solco è: quando un uomo si sveglia al mattino, ha la sua donna vicino, sì, e gli dà un bacino, questo è il più bel regalo del mondo. La donna gli scappa una puzzetta, però qualche volta, se sta lì da tanti anni. Vabbè, Alberto, è felice, è chiaro il suo punto di vista. Iole, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Vediamo se abbiamo dei punti di vista un po' più leggeri, meno convenzionali. Sì, io voglio solo dire che la festa della donna, sì, è la festa della donna, ma noi non abbiamo proprio niente da festeggiare. Beh, adesso non esageri. Già sta parlando al telefono, quindi è viva. Nessuno le impedisce di telefonare, quindi è libera. Sì, io sono contenta di essere donna, per l'amor di Dio. No, solo che noi donne veniamo ancora abbastanza sfruttate. Lei chi la sfrutta, Iole? Andiamo su casi personali. Da chi è sfruttata lei? No, sfruttate nel senso che... noi donne dobbiamo fare tutto, l'uomo in casa, parlo per me. Quindi lei è schiava di suo marito? Non è che ci aiuti tanto, dobbiamo crescere i figli, dobbiamo aiutarli. Ma parli per lei, esperienza personale questa mattina. In questo caso... Sì, io parlo per te. La schiavizza suo marito? Schiavizza proprio no, però in fin dei conti credo che se a casa non ci fossi io, lui sarebbe... Non è capace nemmeno a farsi un uovo al tegamino? No, non è capace di niente. Nemmeno lavarsi un calzino? No. Nemmeno a prendere uno spazzolino? No. E beh, che l'ha sposato a fare un farlocco di questo tipo? Purtroppo io non è che... Voleva un uomo da accudire? Voleva un uomo da accudire lei, Iole? Sì, io? Non lo so. Se mi avesse aiutata anche solo nel tirare sui figli, sarei già stata molto più... E quindi scusi, lei allora è il tipico esempio di donna schiavizzata, dovrebbe fare un giorno di festa, uscire in piazza e fare qualcosa che non ha fatto mai, no? Sì, questo sì. E cosa le piacerebbe fare domani? Cosa le piacerebbe fare, Iole? Potesse decidere lei, un giorno di festa. Uscire di casa, star via tutto il giorno e vedere le cose che ci sono intorno a noi. Ma chi glielo impedisce? Domani non può uscire la mattina e dire oggi per me è festa, ciao caro, e andarsene in giro, ballare, fare quello che le pare. Non può. Potrei anche farlo, e ma perché poi non lo quando fa? Rientro a casa la picchia. Vabbè, intanto per un giorno lo lascia solo, vede che succede. Magari muore di fame per un giorno, è fortunata, torna a casa, è libera, è vedova. Sì, no? Forse sì. Forse ci provi, forse è una buona occasione. Liliana, buongiorno. Pronto? Che fa domani? Che si inventa domani? Pronto? Che si inventa domani, Liliana? Ma non mi invento niente perché non sono molto d'accordo su questa festa così, insomma. No, io sì, però sono donne senza fantasia, mi chiamano stantine. Ora una donna ma mi chiama senza, e dice... senza fantasia, non è... Io l'ho chiamata per questo. Lei quando ha parlato della Boldrini, ha detto il presidente Boldrini. Io vorrei che almeno nella festa della donna comunque ci fosse qualcuno che sottolineasse questo, ma ci sono delle cariche, diamole al femminile, la Madonna, presidente, sì, la presidente. Sì, non cambia in sostanza, sempre signora. Tutto al maschile, tutto al maschile, se non iniziamo mai, altro che festa della donna, caro. Sì, vabbè, guardi, possiamo anche fare una deriva lessicale, non cambia nulla, non cambia la sostanza, capito? Non è questo il punto. Se per lei però è importante che uno dica la presidente, diciamo la presidente, non cambia molto. Guardi che l'uomo è molto ipocrita, l'uomo si adatta comunque a queste sorte di edulcorazioni del comportamento. L'uomo domani vi darà mimose, l'uomo vi dirà che è la vostra festa, dirà che siete le sue regine, le sue principesse, che vive soltanto per voi, senza voi al fianco si sente disadattato, si sente non realizzato, continuerà comunque a far di voi quello che fanno comunque, che facciamo noi tutti, non mi tiro fuori assolutamente, è un grande problema questa cosa qua, però non vorrei questa mattina si dicessero soltanto banalità. 800 24 00 24, vediamo se va meglio fra un po'. Melog, cronache meridiane. Una delle tappe fondamentali verso l'emancipazione femminile è stata l'introduzione della macchina per scrivere. Questa macchina per scrivere, la prima al mondo del 1873, rappresenta un'opportunità di lavoro per le donne che prima non esisteva. Le donne prima erano operaie, casalinghe, facevano i lavori di servitù, ma nessuna donna era impiegata negli uffici. La macchina per scrivere ha dato il giusto e meritato ruolo della donna nella società. Auguri, auguri donne, che siete la forza per noi uomini. Auguri, auguri, auguri. Certo, come dire che la mazza da spaccapietre è lo strumento che ha dato la libertà all'uomo. Basta intendersi sui termini. Beh, questa mattina stiamo proponendo una riflessione sulla festa della donna. Non vuole essere la solita cinica riflessione, aboliamola, non serve a niente, è una festa con un significato lontano e perduto, è una festa soltanto politica. Io mi pongo una domanda, è una festa o una giornata di lutto? Se è una festa bisogna ridere, bisogna scherzare, bisogna essere allegri, bisogna bere, bisogna ubriacarsi, bisogna fare cose folli, quello che si fa quando è una festa. La festa è uscita dal tempo quotidiano. Il tempo della festa è un tempo intermedio fra il mondo degli uomini e il mondo delle stelle, quindi se questo deve essere non vogliamo vedere bandiere a mezz'asta, non vogliamo vedere rievocazioni di lutti, di cose funebri e via dicendo. Oppure è una festa con un forte significato sociale e politico, è un giorno di riflessione su quello che sia il ruolo della donna, il ruolo ancora subordinato, ancora sfruttato, ancora determinato e limitato rispetto a quello degli uomini. Allora non c'è niente da festeggiare, allora andate a fare le cenette in pizzeria, non andate nei luoghi di spogliarello, ci va, non dite che è una festa, non mettete le mimose, andate in dei posti dove si discuta, si rifletta, fate testimonianza, o uno o l'altro, non può essere entrambe le cose, secondo me, ma posso anche sbagliarmi. Irma, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Innanzitutto io la ringrazio che mi avete chiamato e soprattutto la seguo sempre, perché tutte le trasmissioni ci dovrebbero essere più trasmissioni. Vabbè, adesso andiamo al punto. No, no, non è plagiaria. No, no. Parlo di varie argomentazioni. Non mi lascio plagiare. Allora, arriviamo al punto. Io festeggio la festa della donna e la festeggio in perfetta allegria. Oh, brava, finalmente. Ma vorrei che questo discorso non fosse isolato a queste povere donnette sole, poverine, subordinate all'uomo che l'ha fatta sempre da padrone, eccetera. Anzi, io alla Boldrini gli passerei proprio un'email per dirle che magari dovrebbe essere addirittura una festa nazionale. Ma è una festa internazionale, tutto il mondo la festeggia. Sì, lo so, meno che in Italia però. No, come no, domani vedrà le mimose in giro, sì, tutti vabbè, dichiareranno. Mimose, però è sempre circoscritta a queste cose, diciamo, isolate. Sì, ma allora invece di piangersi addosso, scusi, come lei in questo momento ha in mano il potere, esatto, può definire il format della festa della donna, mi dica esattamente come vorrebbe che fosse fatta questa giornata, passata questa giornata. Allora, questa giornata innanzitutto dovrebbe essere fatta come festa nazionale, dove la partecipazione non dovrebbe essere limitata solo alle donne, ma dovrebbe coinvolgere anche gli uomini, perché questo è il punto di riferimento. Quindi una giornata sul calendario rossa, suggerisce il professor Chiappini. Come l'Epifania. Certo, come... fanno la festa per la Befana, che è una vecchia puzzolente, esatto. Non la fanno l'8 marzo, che è la appunto, festa di tutte le donne. Non solo, giusto. Ma visto che c'è la festa del papà, la festa della mamma... Vabbè, quelle sono cose veramente per vendere vabbè, i cioccolatini. Ma per farle capire adesso. Questa è una cosa un po' diversa. Va bene, ecco, cioè... ci dovrebbe essere una... Sì, ma lei mi deve dire il format, non teorizzi, imparate a essere, scusate, poi mi dicono che sono aggressivo, non sono aggressivo, dica esattamente, la mattina ci si sveglia, cosa si fa? Si esce per strada, ci si ubriaca di mattina? La mattina ci si sveglia e si comincia a dire esattamente da dove siamo partite noi donne, io mi riferisco... Bene, a noia, già come la dice, all'Italia. Noiosissima, però è noiosa, bene, così è una noia. Non è una festa, è la lezione a scuola. Aspetti. E dico, io sono contenta di essere donna perché la donna nella società, specialmente italiana, è un punto di riferimento, nonostante che ci siano tutti questi femminicidi, ma questo è un altro discorso. Vabbè, dice, sono contenta di essere donna perché è il somaro su cui salgono tutti, per questo. Sono contenta di essere donna perché gli uomini, in particolare, insisto a dire, quegli italiani, visto che ho girato il mondo, compresa Europa, America e Africa, va bene, senza una donna sono persi, la dimostrazione appena lasciato... Però è chiaro, allora, per Irma la festa della donna è la festa del fulcro su cui si poggia tutto il mondo maschile. Lei che ha girato il mondo, ha visto uomini africani, asiatici, europei, dice per gli italiani senza donne siete finiti. Quindi oggi è la festa delle donne senza la quale gli uomini sono finiti. Un punto di vista. Paola, Paola, buongiorno. Pronto, Nicoletti, buongiorno. Mi dia un buongiorno. Format divertente per la festa della donna. Sì, divertente non lo so, ma mio sicuramente. Su. Allora, io sono al terzo marito e comando solo uomini. Sono e mi festeggio tutti gli anni. Fa la mistress di mestiere, cosa fa? Magari. Chi glielo impedisce di farlo? No, perché non mi piace fare quello che faccio. Ma li ammazzati questi o se l'è semplicemente liberata? No, assolutamente, sono magnifiche persone che mi hanno ovviamente... Ma perché l'ha sposati a Raffica invece? Ma non a Raffica, o a Raffica, io ho sposato questi uomini secondo la mia evoluzione, cioè arrivando a quello che non dipendeva più da me. Ma la mantengono tre ex mariti quindi? No, io mantengo loro. Ah, beh, è un'istituzione. Perché sono partita dalla Candy, capito? Quindi ho questa evoluzione un po'. Va bene, lei è una benefattrice del genere maschile. Sì, esatto. Chi la sposa vince la lotteria. Esatto. Perché si libera della moglie ma viene mantenuto. Sì, esatto, viene mantenuto. Insomma, diciamo che siamo alla pari. Ma lei, Paola, scusi, lei è l'esempio di una festa. È la festa degli uomini, però è festoso pensare a lei, che passa di marito in marito e poi non è che c'ha rancore, li continua a mantenere, li tiene in vita. No. È un'ape regina. No, rancori, sono stati i padri dei miei figli, sono persone meravigliose, se no non le avrei scelte, sarei stupida. No, non sono una donna stupida. Poi una meraviglia a scadenza, con la data di scadenza. Sì, esatto, tutto ha una scadenza. Questo è sacrosanto, tutto, sì, anche i sentimenti hanno una scadenza. Esatto, e quindi niente può essere, poi se qualcosa si lega per l'eternità... Quindi lei che fa domani? Paola, andiamo... Domani non posso festeggiare perché io lavoro quando gli altri festeggiano, quindi purtroppo non posso festeggiare. Mi prendo il mio giorno di solito una settimana dopo. E cosa fa? Allora, la prima cosa che faccio è spendere i soldi. Bravo. Spendere i soldi senza pensare ai miei figli, ai jeans nuovi di mio marito, al rasoio elettrico, alla nuova stirapolvere. Questi sono soldi miei. E come li spende? Allora, sicuramente non investiti perché... In uomini di malaffare, spero. No, magari, 48 anni, no, dai. Beh, 48 anni mica da buttare, scusi. No, ma 48 anni visto solo uomini, cioè che palle. Vabbè, provi con gli animali a cortile, che ne so, vari. Questo potrebbe essere un'idea. No, niente uomini, allora via gli uomini perché c'è palle, no. Allora, questi soldi li spendo in, libri, io amo i libri, poi vado, ma non libri, cioè libri tipo di Ricalchi, libri divertenti, libri divertenti. Tipo Ricalcati, questi libri qua che piacciono alle donne. Sì, niente di romanzo. Fabio Volo. No, Fabio Volo no. Ah, Ricalcati, Ricalcati è un bel esempio. Ricalcati, non è che sia una grande differenza in realtà, comunque va bene. No, vabbè, però un filo, minimo, me lo vuoi. L'apparenza, sì. Dopodiché, Ricalcati è il Fabio Volo delle donne di cultura elevata, diciamo. Esatto, così dicono. Madonna, che brutta questa. Ma è così, purtroppo. Vabbè, così. Viene a fare anche uno show a Roma. Poi siamo amici, non è che li voglio male, ma è così, obiettivamente così. È vero. Dopodiché vado da dei miei amici in una via di Livorno che si chiama Via Cambini e mi vado a fare il pranzo da loro perché non voglio cucinare, io cucino per lavoro, quindi non ci penso nemmeno. E dopo aver mangiato e ben bevuto a Via Cambini? E via Cambini, mangiato, bevuto, di pomeriggio vado a vedere delle cose in un'altra città che è Firenze. E non voglio sapere che cose sono. Esatto, e alla sera mi ubriago. Brava, mi perfetto. Piace tanto il vino. Mi sembra un bel format. Paola mi ha dato un format che mi piace. Alessandra, vediamo se riusciamo a integrare questo format. Alessandra. Sì, pronto. Cosa aggiungerebbe o toglierebbe al format di Paola? Spendere soldi, mangiare, bere, ubriacarsi, andare a vedere delle cose che non si può dire e finisce la giornata. No, io penso che dal momento che c'è la festa delle donne ci dovrebbe essere anche quella degli uomini. Ma gli uomini fanno festa sempre. Questo non è vero. Sì, guardi. No. Si fidi. Abbiamo più occasione di far festa. Però ci lamentiamo, una riunione difficoltosissima. Oggi ho faticato tanto. Devo vedere questi colleghi. Sono giorni di festa per noi. Ma perché gli uomini... Rivelo un segreto degli uomini. Perché forse gli uomini hanno imparato a prendersi i loro spazi, questo forse dovrebbero impararlo anche le donne, no? Senza che ci sia per forza l'8 marzo, dovrebbe essere una cosa... Poi se l'8 marzo... Sì, ma la festa è bella, dire che un giorno si fa festa, cosa si inventa? Sì, lei che fa domani, Alessandra? Io penso che farò le stesse cose che faccio sempre. Quindi non c'è festa, per lei non c'è festa allora? Sto con il mio compagno, visto che ci vediamo poco durante il giorno, perché io lavoro a Milano e abito a Laveno, quindi ci vediamo la mattina presto e poi la sera tardi. Come il 90% delle coppie che lavorano. Penso che che, anzi, le racconto un aneddoto se ho la possibilità. Sì. Lui me li ha fatti stamattina gli auguri perché il suo orologio è sfasato e quindi gli dava oggi la data di domani. E io gli ho detto, beh, potremmo, come dire, fare in modo che tutti gli anni per noi la festa della donna sia il 7 marzo, nel senso che sarà la nostra festa della donna. E come avete festeggiato? Niente, preso il cappuccino, ognuno a casa sua. Stasera lui cucina, spesso capita che cucina lui. Ah, quindi la festa è fare cucinare all'uomo, va bene. No, ma questa è una cosa che avviene anche in altre Ma allora, scusi, la festa è l'irruzione dello straordinario nell'ordinario. Dov'è lo straordinario? Cucina suo marito quando torna dall'Aveno? Ma lo straordinario penso che sia il fatto che comunque forse domani più che in altri giorni ci si ricorda forse della donna, questa è la cosa straordinaria. Sì, vabbè, ma ricordarsi sciatto, guardi, io posso anche fare il bel gesto domani mattina come fanno tutti i marpioni di portare il mimosa a tutte le colleghe, ma figuriamoci, la mia testa è altrove, non sento la festa, se non mi raccontate come si festeggia. Tania. Sì, buongiorno. Mi inventi una festa, almeno lei, la prego Tania. Sì, a me piace festeggiare la festa 8 marzo. Io sono una moldava che da noi... Finalmente. Del fresco sangue moldavo ci ridà il senso della festa. Allora, mi dica cosa fa domani, Tani. Domani, sì, anche noi le amiche ieri l'abbiamo festeggiato già. Avete già cominciato da due giorni prima, sì, quindi... Sì, qui siete già belle calde, belle ubriache, naturalmente. Le ombre anche così Viste già allegrette e quindi domani abbiamo bevuto, mangiato, ballato, abbiamo messo delle nostre canzoni con uomini, i nostri compagni sono italiani e quindi è una bella festa alla fine. Sì, in tutto è stata una bella festa perché a noi piace festeggiare 8 marzo, anche in Moldavia si festeggia, non si va a lavorare, è rosso un calendario. Vedi, in Moldavia sono più seri che in Italia, fanno tante storie ma nel calendario è un giorno nero, triste, di lutto, non è una festa. E tutte le donne, ma io quando sento... Ma che festa è che bisogna andare a lavorare? Che festa è che bisogna comunque andare a lavorare? Comunque domani le donne dovranno andare a timbrare il cartellino, a presentarsi dal loro capo o fare, se sono loro il capo, comunque le loro riunioni. Non è una festa, la festa sarebbe che domani uno salza quando vuole, s'ubriaca, va in giro, va a ballare, va in bicicletta, va sul filo sospeso, si arrampica sul palo, fa quello che vuole, sennò che festa è? Sì, appunto, ecco, per noi è così, festeggiamo tutti insieme con le amiche, con va bene, Tania, sorelle, fermiamoci un attimo da dare la linea. Tania ha dato il primo vero esempio di festa. Lei e le sue amiche moldave già da due giorni si ubriacano, ballano e festeggiano e domani sarà l'apoteosi. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Questa mattina sto cercando di farmi suggerire dalle ascoltatrici un nuovo format per la festa della donna, perché su una cosa perlomeno questa mattina mi sono confermato la mia impressione, così come è fatta è una festa incerta, una festa che non si capisce bene se sia una festa o sia un giorno di commemorazione, di riflessione. Può essere entrambe le cose magari, ma bisogna capire come, in che maniera, bisogna fare una scaletta, un palinsesto della festa della donna, se ognuno la prende e la usa per quello che pensa. Chi pensa sia una giornata per riflettere sulle donne morte, una giornata per riflettere sulle violenze nei confronti delle donne, sulle ineguaglianze di percezione sociale delle donne, sta benissimo, perfetto, allora è una giornata di riflessione, è una giornata importante, una giornata in cui non bisogna perdere tempo a dar mimose o andare in giro per locali, bisogna fare altre cose. Oppure è la giornata dell'irrazionalità totale, in cui le donne hanno libertà di sentirsi donne leggere senza che nessuno le giudichi. Se la giornata della donna leggera, tutte le donne siano leggerissime e sarà una grande festa, probabilmente servirà anche a ridare loro un ruolo diverso nella società. Artemisia, buongiorno. Buongiorno. Ha un nome importante per parlare di festa della donna. Una piccola provocazione che abolire il calendario presento con ogni giorno dei santi e andare dietro in tempi pagani tipo 1° maggio o 8 marzo per festeggiare i fiori, per ballare con la luna, per fare tutte queste cose. Un rito ctonio, le pitonesse, ritirare fuori le pitonesse. Facciamo votare tutti, vediamo che cosa uscirà. Ma lei vuole fare una festa pagana in cui le donne hanno possono fare le corribanti del dio Pan, quello che vogliono, seguire il coro di Cibele, che erano uomini castrati, in effetti non erano donne. Comunque una grande festa pagana, una festa naturale in cui le donne si fondono con la natura e diventano natura allo stato puro. Questo, vabbè, è una soluzione, ma avvenisse questo, non avviene nemmeno questo. Marina, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, senti, per me domani è un giorno di commemorazione. Giorgio, perché... festa. Non è una festa, ma è un giorno di riflessione. Non è una festa, ricordiamo queste povere signore. Anche perché ci devono fare la festa un giorno all'anno e tutti gli altri giorni è la festa di voi uomini? No, dai. Beh, non è proprio esattamente così, però è vero, sì. Considerare la donna. Allora, io sono una donna. Sì, ma considerarla una minoranza fare la festa. Ingegneria meccanica, guido il fuoristrada più difficile del mondo da guidare, e perché mi devono, per fortuna che un marito che non me le porta le mimose quel giorno, dai, si festeggia altri giorni, qualsiasi giorno. Se io il 20 marzo voglio ripigliare le amiche, metti il 20 marzo, il 20 aprile e andiamo a farci una festa, una bella cenetta, così. E allora, quindi secondo lei serve l'8 marzo per ricordare che le donne hanno ancora un sacco di diritti di cui doversi riappropriare, ricordare appunto, come giustamente molti dicono, le violenze che subiscono le donne nel mondo, che sono in fondo la parte più debole, più sottomessa e più reietta in una grande parte del mondo. Quindi una giornata di riflessione, quindi c'è poco da ballare, poco da festeggiare, è un punto di vista rispettabile. Liliana. Buongiorno Gianluca, io la seguo da parecchio tempo e le faccio i complimenti, comunque grazie per l'opportunità. Dicevo alla redazione che telefono da Trapani, in buona sostanza è lei che in questo momento ha regalato un palinsesto alle donne. In che senso? Le donne, visto e considerato che vivono in uno stato non più di soggezione, ma sperando di sopravvivere a quello che possono essere le questioni paritarie che si sono messe sempre sul tappeto in ogni ciclo storico della vita politica e nazionale del paese, condizionata comunque anche solidamente da fattori esterni che vogliono vedere la donna tutto sommato veramente equiparata ai diritti dell'uomo. Quindi la questione è questa, che in buona sostanza se la presidente del Boldrini desidera che sia una giornata di commemorazione, lo sia, proprio perché l'indagine Istat e i vari organismi competenti che osservano la donna dall'interno e dall'esterno, perché è nucleo familiare, perché è madre, perché è sì, moglie. Voglio dire, è giusto, però quindi, poi non chiamiamola festa allora, perché non è una festa. Le bandiere allora, a mezz'asta è un giorno di riflessione. Sì, la festa può realizzarsi solo quando la memoria storica ha restituito alla donna la dignità. Perché, tuttavia, quando la donna esce di casa domani, lo fa chi lo fa per stizza, chi lo fa per vendetta, chi lo fa perché vuole veramente divertirsi, essere più leggera, entrare in quel meccanismo di complicità che insolitamente non trova nelle donne quando rientrano a casa in un alveo familiare non per forza violento o aggressivo, ma mistificatore. Di conseguenza la donna si adegua, perché questa è la forza della donna: adattabilità, adeguamento e desiderio di rinascere ogni giorno. Allora sì che si può offrire la mimosa, la rosa o quant'altro. Siliana, però mi dica, visto che manca un minuto, lei che fa domani? Ancora? Detto questo, che fa da domani? Fare, sì, lei mi ha fatto un comizio. Domani cosa fa? A un minuto. Domani cosa faccio? Visto e considerato che è una giornata di riflessione, aspetto che mio marito faccia il primo passo, ovviamente lanciando dei segnali. Quali sono i segnali? Passo, come si realizza? Sono dei dissapori, se ci sono dei conflitti, si torni al dialogo, perché proprio il palinsesto principale, quando il governo nazionale non vuole confliggere... Vabbè, lei fa la sindacalista di mestiere. Liliana, lei mi parla del suo problema coniugale e non può diventare l'elemento risolutore della domanda che ho fatto questa mattina: che fanno le donne domani? Non mi avete molto risposto, signore, cosa fate domani. Avete semplicemente ribadito quello che è già stato detto, che è stato scritto. Domenica, vediamo domenica, speriamo che domenica... Buongiorno, domenica. Ciao Gianluca. Che fai domani? Domani vado alla Scala a vedere il balletto di Don Chisciotte. Va bene, questo, da sola? Vado da sola perché ho una visita agli occhi a Milano e approfitto di fare questa cosa, visto che non ho mai visto la Scala, quindi andrò a vedere, ad ascoltare questa, a vedere questa cosa. Va bene. Per domenica fare festa significa vedere la Scala, e questo è un punto di vista rispettabile. A domani, divertitevi.